cancello, chi dal cor di cancello, di Provenza e guari il sol, qual mattio fulgente sol, qual destino ti furo, qual destino ti furo, qual mattio fulgente sol. Rammenta pur del tuoi, chi mi gioia te brillò, e che pace con la sol, su te splendere ancor può, e che pace con la sol, su te splendere ancor può. Se hai finti trovo ancora ti